un impianto di norme talmente complicato, quello che riguarda appunto proprio l'edilizia, riguarda per esempio il tema della ristrutturazione della casa, che effettivamente è molto difficile non scontrarsi in continuazione. E tutti i dubbi che la scia ha suscitato sono stati in qualche maniera fugati, Cristiano? Beh, diciamo che i dubbi sono stati veramente tanti, tant'è vero che non più di una decina di giorni fa ha dovuto intervenire il Ministero della Semplificazione, in sostanza i tecnici che la norma l'avevano scritta, con una nota che chiariva innanzitutto che la scia si applicava anche all'edilizia. Questo per farti capire quanto grandi fossero le incertezze. La norma sulla scia era nata per chi voleva aprire un'impresa, per chi voleva avviare un'attività commerciale, e all'inizio si dubitava persino della sua possibilità di applicarla all'edilizia. Stessa cosa hanno fatto anche molti comuni hanno espresso indirizzi, indicazioni in materia. Questione chiusa, io non direi, nel senso che per capire quale sarà effettivamente la portata della nuova semplificazione bisognerà attendere l'orientamento degli enti locali. Le inchieste che hanno fatto anche i colleghi di Edilizia e Territorio dimostrano che nei primi giorni, nelle prime settimane di applicazione della norma, ci sono stati comuni che hanno continuato a pretendere la DIA, quindi a rimanere, diciamo, sul sicuro. Altri che invece hanno detto no, basta, la DIA non serve più, portateci soltanto la scia. Altri ancora che in una fase di incertezza hanno continuato a richiedere entrambi i documenti, ad accettare entrambi i documenti, lasciando quindi in qualche modo al cittadino e al suo geometra, al suo architetto, la scelta di quale iter seguire. Peraltro c'è una cosa da dire, che poi la differenza veramente rilevante è soprattutto nella possibilità di partire subito con i lavori, non tanto nella documentazione che deve essere presentata, che rimane sostanzialmente simile sia per la DIA che per la scia.